livello educativo repressivo e di controllo delle donne, nel momento in cui le donne in qualche modo si fanno convincere a non abortire, allora hanno a disposizione questi fondi. Capite bene che si tratta di un ricatto assolutamente inaccettabile. Quindi una dimensione territoriale, certo, insomma, che ci vede fortemente sotto attacco, ma sappiamo insomma che è la faccia poi di territoriale di una crisi che sta investendo tutte, un intero sistema, e che, certo, vede le donne in situazioni insomma particolarmente difficoltosa. Penso anche alla riforma delle pensioni, penso alla nuova controriforma del lavoro, ad un welfare insomma che è in via d'estinzione, e le donne sono chiamate ancora una volta a sopperire insomma con lo stato sociale, a quel welfare che lo Stato non ha più intenzione di mantenere, perché appunto direziona le risorse pubbliche altrove. I temi insomma sul campo sono parecchi, come ben immaginate, tanti, e come penso insomma anche nelle altre città italiane. Quindi questi sono un po' i contenuti che abbiamo messo in campo nella giornata di sabato. Sicuramente ci sarà una presenza che avrà l'accoglienza che si merita di uno spezzone delle donne notar che scenderanno dalla valle per manifestare con noi a Torino. Sì, stamattina ce lo hanno detto. Infatti, speriamo di essere in tanti, di riuscire a muoverci per la città. Vorremmo simbolicamente così toccare un po' alcuni luoghi di Torino, come i consultori, come la regione, come mezzi di informazione insomma che ci attaccano in questo momento. Speriamo di insomma di essere un numero tale da poter muoverci in corteo e fare tutto questo, ecco. Speriamo, infatti, quindi manifestazione diciamo all'insegna del diritto all'autodeterminazione, a decidere appunto delle nostre esistenze nei nostri territori. Noi ti ringraziamo molto, a questo punto poi ci riaggiorniamo nelle settimane successive e ci raccontate com'è andato, insomma. Comunque sempre Notav e siamo con voi. Grazie, tra l'altro Chiara che ci ha accompagnata veramente in tutta questa maratona, veramente da tutto il giorno. Grazie a voi per averci coinvolti sia come collettivo che come radio. Insomma, è stata una bella giornata che abbiamo trascorso insieme, rilanciandoci le une con le altre. Quindi insomma speriamo che questa collaborazione possa continuare in futuro. Sì, infatti ci è piaciuta molto pure a noi questa collaborazione, grazie mille di averla resa possibile anche, e abbracci, un e a abbraccio presto. Abbracci, ciao. Ciao, ciao, ciao, a presto. A presto. Special Monday Castle. Torino, 10 marzo, ore 15, manifestazione in Piazza Castello. Biscucciera, gioielliera, telefonista, macchinista. O fleuriste, coriste, urbaniste, ébéniste, pépiniériste, satiriste, coloriste, courrieriste, chimiste, hygiéniste, trompettiste, trapéziste. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler. Dédicacé aux géologues, psychologues, sociologues, sinologues, philologues, éthologues, graphologues, archéologues, paléologues, marinières, infirmières. Aux costumières, aux couturières, aux façonnières, aux gantières, aux lingères, aux ménagères, aux guichetières, aux secrétaires, aux romancières, aux aventurières, vas-y, continue la liste. Téléphoniste, machiniste, économiste, violoniste, étalagiste, paysagiste, métallurgiste, aquarelliste, carriériste, archiviste, journaliste et modéliste. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler. Aux chercheuses, aux enquêteuses, aux ajusteuses, aux acheteuses, aux chanteuses, aux danseuses, inspectrices ou perforatrices. Désinatrices, créatrices, animatrices, opératrices, réalisatrices, productrices, éducatrices, monitrices, compositrices, cantatrices, galériennes, magiciennes. Aux historiennes, bohémiennes, grammairiennes, physiciennes. Va bene, un po' ce lo meritiamo. Sentite l'atmosfera, sembra che siamo in piazza pure noi. Abbiamo si portato pure qui la piazza, nostra, è una lotta che facciamo con tutte e che la facciamo ogni martedì, e quest'oggi la stiamo facendo per 24 ore con tutte voi che ci state ascoltando e con tutte le compagne che passano di qui, appendono striscione alle finestre, ci portano da mangiare, da bere, dolci, salate e quant'altro, e le mimose. Potremmo anche mettere su un banchetto. Però un offrire, po una sì, cena, offrire una 05. Cena 19.05, ricordiamo che siamo in diretta e badate bene, in diretta senza nessuna ora buca o registrata da mezzanotte dell'8 marzo. Saremo con voi ancora fino alla mezzanotte di oggi. Abbiamo ancora tantissime trasmissioni importanti, tra cui quella sulla violenza contro le donne con la cooperativa Be Free e il centro Donna Lisa alle 8:30, quindi è ancora lunga, stiamo per finire questo lungo spazio che ci ha portato un po' in tutta Italia a raccontare quelle che sono state le manifestazioni di oggi, i volantinaggi e le iniziative delle femministe e delle lesbiche auto-organizzate. Siamo molto gasate, nonostante l'orario. Esageratamente gasate. Esageratamente, forse. Io sono qui da 12 ore e mi sto di nuovo risvegliando, perché sentire tutte le compagne in giro per l'Italia che fanno delle cose, e anche la bellissima atmosfera, devo dire, che c'è qui in radio, non è innegabile. Speravamo diventasse così e siamo contente che lo sia. Non so se sentite questo vociare in sottofondo. È pure troppo, raga, è pure troppo. Ai microfoni. Una cosa bella è che ci chiamano anche le compagne, le donne in lotta oggi, perché ci hanno appena chiamato da Tivoli, stanno facendo un presidio. Ah, e un presidio, proviamo a sentirle. Tivoli. Las que dejaron cocinas tomaron armas en las mañanas. Mujeres que viven en la selva, mujeres del pueblo y de ciudad, indígena eres, color de tierra, mujer fortaleza y dignidad. Mujeres que hilan ya su historia, mujeres de fuego y corazón, indígena eres y es tu conciencia la que hace ponerte de calzón. Las que amarran sus verdades con paliacates en sus gargantas, las que hacen invisibles las clandestinas, las no contadas, las del dolor triplicado de mujer pobre, india de nada, las que huellas han dejado borradas todas por las distancias. E allora siamo in collegamento con le donne di Tivoli che ci hanno chiamato. Non sappiamo che cosa state organizzando, raccontatecelo quindi voi. Va bene, allora intanto buonasera a tutte, siamo qui in piazza Santa Croce a Tivoli, proprio sul corso di Tivoli, e piano piano eravamo un po' poche all'inizio, ma stiamo diventando tante donne, compagne che stanno qui e facciamo un presidio per ricordare insomma questa giornata, per dire no alla violenza sulle donne. Per essere presenti qui, perché a Tivoli comunque sono fatte parecchie iniziative, parecchie lotte anche per il consultorio, c'è una nutrita schiera insomma di compagne abbastanza agguerrite, e la cosa sta venendo abbastanza bene, ci sono parecchie donne che si fermano e siamo qui, ecco, solo per ricordare appunto che ci siamo anche noi di Tivoli, perché venendo su con la macchina ho sentito che telefonavano parecchie compagne da tanti posti, ho detto vabbè, adesso telefoniamo pure noi. E infatti non lo sapevamo, grazie. Informiamo che ci siamo pure noi. Senti, ma tutto chi qua. Siete? Voi siete un gruppo, un collettivo, vi vedete normalmente? Ultimamente sì, un po' di meno. C'è un gruppo di donne che si chiama appunto Rete Rosa qui, ma ci sono tante donne che anche partecipano, anche non facendo parte del collettivo, perché tante compagne ci sono qua che comunque si muovono al di là anche dei collettivi, no? Però sì, c'è questo collettivo, si chiama Rete Rosa, e facciamo parecchie iniziative, da qui questa che volevamo ricordare. Adesso ci stiamo muovendo soltanto in circolo, come una cosa tipo all'americana, perché ci hanno impedito di passare per il corso, e quindi ci hanno soltanto consentito, come se fossimo chissà che cosa, ma non siamo proprio tranquillissime, ci hanno dato l'autorizzazione a fare un circolo qui intorno alla piazza. E quindi per ora quello che... non si può. Per ora è quello che fate, va bene. Va bene così. Va bene, va bene. Grazie mille. È bello perché comunque si rivedono tante compagne che magari in tante occasioni non possiamo vedere, e questo è meraviglioso. Ci siamo sempre, ci siamo e continuiamo a fare quello che possiamo con tantissimo entusiasmo. Bello, siamo molto contente, buona lotta quindi. Grazie. A presto. Ciao. Ciao, grazie ciao, a voi, ciao, grazie ciao. Per esserci, ciao. Anche voi, ciao. Ciao, ciao. E loro erano le compagne da Tivoli. Wanita karir, muami jeng kodat wanita, lamun dina rumah tangga, anak salaki nomor hiji. Di questa grande giornata, di questa espansione del martedì autogestito da femministe e lesbiche per l'8 marzo, siamo tantissime. Adesso che ho aperto i microfoni c'è stato un grande shh, non so se ve ne siete accorte, tutte si sono ammutolite e mi guardano, ma sono tantissime. Siamo

e quindi la autorizza sostanzialmente ad avere un bambino, e questa è una cosa assolutamente ridicola, sì, però anche molto pericolosa, e determina ovviamente sottolinea il clima che c'è in questo periodo, in questa fase in cui i giudici adesso si prendono veramente delle libertà che un tempo non hanno, nel senso che le stesse operatrici del consultorio che ci hanno comunicato questo avvenimento e non avrebbero dovuto, oggettivamente sono pronte a in qualche modo agire anche in maniera pubblica contro questa situazione, per cui un giudice tutelare, che dovrebbe tutelare appunto la minore e quindi autorizzarla a fare interruzione se lei lo chiede, in questo caso lo chiede, si arroga il diritto, la presunzione di dire no, non ti do l'autorizzazione, ergo la ragazza probabilmente avrà un bambino. Sì, sì, no, o cercherà un aborto clandestino. Certo, è allucinante, e sì, magari ci piacerebbe approfondire un po' di più questa storia che ai noi speriamo, insomma, non a molte altre, ma probabilmente se questo è l'atteggiamento e comunque di un controllo del tribunale di Frascati. Del tribunale di minori di Frascati. Sì, è un controllo Paolo sempre Conti. Più capillare, e allora ne riparleremo anche per dare meglio. Parleremo anche con un'operatrice, quella che ha raccolto sostanzialmente la richiesta della minore, e vedremo di fare un minimo di quadro di quella che è la situazione, appunto, della richiesta di possibilità di ancora di avere l'interruzione di gravidanza tramite consultorio. Va bene ragazze. Paola, ti ringraziamo, un abbraccio e ciao. Grazie mille di aver partecipato anche tu. Ciao. Ma visto che noi rincorriamo il tempo, volevo dire che per chi volesse ricominciare ad ascoltarci dalla mezzanotte di questa di ieri non contenta di averci sentito magari tutto il giorno, può farlo già sul nostro blog, dove dalle 00 alle 10 di stamattina c'è già tutta la programmazione di oggi. È vero, mamma mia, mani e menti abbiamo qua. Cattiva, che sul lavoro è come un uomo. Che un po' che non lo facciamo, salutiamo Transizione di Fase, dai Chloe, e poi anche Radio Di Massa. Anche Radio Di Massa che mandano lo streaming, che hanno mandato tutto per oggi, lo manderanno fino a mezzanotte lo streaming della grande maratona dell'MFLA. Salutiamo anche le altre radio che comunque ci hanno fatto compagnia nella giornata, Radio Blackout, Radio Onda d'Urto. Eh sì, e abbiamo già subito un'altra telefonata da mandare in diretta. Pronto? Ciao, siamo con... ecco, la voce incomincia a abbandonarci. Sarà la centesima sigaretta. Siamo al telefono con Giovanna da Milano dell'MFPR. Ciao. Ciao. Allora, raccontaci le iniziative su Milano. Beh, oggi diciamo che abbiamo fatto diversi momenti, però secondo noi il momento principale è stata la solidarietà che abbiamo portato alle compagne di lavoro di Agata, la donna che un po' di giorni fa è stata aggredita violentemente dall'ex compagno che lei aveva lasciato sul posto di lavoro, praticamente era andato sul posto di lavoro e l'aveva massacrato a botte. Quindi oggi abbiamo voluto, vista l'aumento di uccisioni e di aggressioni violentissime che nell'Interland milanese a Milano ci sono stati in un crescendo nell'ultimo periodo, abbiamo voluto significativamente aspettare l'8 marzo per portare la solidarietà concreta. Abbiamo lasciato un messaggio da far avere ad Agata in cui appunto ci siamo dette al fianco delle donne che lottano contro la violenza, l'oppressione, visto che lei appunto aveva lasciato questo suo compagno, e insomma le abbiamo lasciato questo messaggio scritto a mano. Poi abbiamo messo tutte le locandine nella zona tutto attorno a questo bellissimo centro in cui lavora una biblioteca pubblica di Milano. Quindi noi riteniamo che nella giornata di oggi abbiamo fatto diverse altre iniziative con volantinaggi, anche nello specifico come lavoratrici della scuola, alcune e quant'altro, per i continui attacchi che si subiscono, però questa ci è sembrata, diciamo, il momento più importante e significativo, ecco, perché riteniamo appunto che qua a Milano e al nord in generale la violenza sulle donne stia, anche perché volevamo in critica alle dichiarazioni dell'assessore milanese alla mobilità, che vuole introdurre le aree rosa nel metro dopo una tentata violenza che c'è stata nella metropolitana milanese, e quindi vogliono riproporre il discorso della militarizzazione del territorio, quindi come dire, in distinzione da quello che si vuole affermare, per cui la violenza viene agita principalmente per le strade da sconosciuti, e soprattutto criticare il discorso della militarizzazione del territorio, che secondo noi, come abbiamo visto anche in passato a Milano, porta a un rinchiudere le donne in casa, una desertificazione delle strade che per le donne significa vivere in un ambiente più pericoloso, ecco, perché come dimostrano questi fatti, insomma, che si sono verificati nei giorni che scorsi. Si continuano a verificare sempre ovunque in tutta Italia, con nessun tipo di differenza né di luogo. C'è un crescendo, noi lo vediamo, insomma, c'è un crescendo proprio di episodi. E quindi anche qua bisogna, certo, ci sono in tutta Italia, ci sono dappertutto, però intanto non è venuta meno il tentativo di utilizzare strumentalmente le violenze sulle donne, no? Come vi dicevo, questa militarizzazione della metropolitana con aree rosse riservate alle donne e quant'altro che vorrebbero introdurre, è un uso strumentale comunque della, certo, violenza sulle donne. Certo, questo lo sappiamo, aspetto, lo sappiamo, ce ne siamo rese conto già da qualche anno, per fortuna questa riflessione noi insieme siamo riusciti a farla già dal 2007, l'abbiamo fatta con la strumentalizzazione dell'uccisione della Reggiani per far passare o per giustificare comunque il pacchetto sicurezza, un pacchetto appunto repressivo per molte, così come le schedature di massa attraverso il DNA nella provincia dove è scomparsa e poi è stata trovata uccisa un'altra donna, Iara, e sono politiche repressive appunto che vengono fatte passare come scusa sul corpo delle donne. Il discorso è che qua secondo noi si legherà molto anche al discorso della retorica sulla famiglia. Voglio ricordare che quest'anno l'incontro mondiale delle famiglie si terrà proprio a Milano, quindi anche questo aspetto io non lo slegherei, le dichiarazioni dell'assessore alla mobilità non lo legherei anche da questo evento che ci sarà a Milano, il discorso della centralità della famiglia, del ruolo della donna in essa, insomma, quindi non sottovaluterei questo aspetto. E noi non lo sottovaluteremo questo aspetto, e magari avremo occasione di riparlarne. Scusami se ti interrompo, ma adesso vorremmo ricollegarci in chiusura di questo lungo spazio che abbiamo fatto con le compagne di Palermo, perché lì la manifestazione sotto la Regione ha avuto anche momenti di tensione, quindi vorremmo sentire da loro come sta andando e appunto. Va bene. Ti ringraziamo molto, ciao, comunque a presto. Ciao, ciao, ciao, ciao a tutte, ciao. E allora sì, arriviamo alla fine di questo spazio lotto tutto l'anno. Martedì autogestito da femministe e lesbiche, una carrellata di telefonate molto rapide e brevi, però abbastanza significative, delle iniziative di messa in piedi dei collettivi auto-organizzati da femministe e lesbiche in Italia. Noi l'ultimo collegamento ce lo abbiamo con Palermo, dove appunto le donne si trovavano precarie, si trovavano davanti alla presidenza della regione, c'è stato qualche tafferuglio con la polizia. Ora vi aggiorniamo. E allora eccoci in collegamento con Palermo. Ciao, ci senti? Sì, ciao. Ciao, ben trovata allora di nuovo. E cosa è successo? Come si è conclusa la vostra mobilitazione? Allora, dopo è successo che praticamente abbiamo continuato a reclamare l'incontro perché che ci negavano già da un mesetto. Un gruppo di precarie. Loro continuavano a dirci che non c'era nessuno, che non ci poteva incontrare nessuno. A quel punto abbiamo cominciato a, insomma, a protestare più fortemente. E quindi abbiamo cominciato a spingere tutti quanti contro la polizia per cercare di entrare nel portone. E nel frattempo si è sceso un ispettore di polizia che ha dato l'ordine di caricarci e quindi qua c'è stato un po' più di confusione perché naturalmente tutti abbiamo fatto cordone, abbiamo spinto ancora di più e avevano afferrato una lavoratrice per arrestarla. A quel punto tutte ci siamo, naturalmente abbiamo accerchiato la nostra compagna e ce la siamo riacciuffata perché l'avevano praticamente presa. Quindi ce la siamo riacciuffata e quindi naturalmente intonando tutti i slogan, ma c'è cioè uno stato di polizia, vergogna, eccetera, eccetera, abbiamo cominciato, diciamo, continuato a spingere, e loro naturalmente ci spingevano indietro con gli scudi. Dopodiché in questo momento caldo sono scesi gli agenti della Digos e ci hanno detto che alla fine finalmente ci davano sto incontro la prossima settimana, per la precisione del giorno 15. Allora noi a quel punto, siccome comunque gli animi siamo riscaldati, anche perché senza motivo arrestare le lavoratrici, cioè noi veniamo lì per reclamare un giusto diritto, non ci pagate da mesi, ci volete licenziare e voi ci caricate oppure ci volete arrestare, quindi abbiamo continuato a fare slogan rimanendo compatte in cordone e spingendo e poi insomma dopo un po' comunque ci siamo sciolte perché alla fine l'incontro ce l'hanno dato, insomma, però ce ne siamo andate proprio facendo slogan, denunciando soprattutto questa repressione, cioè in particolar modo dicevamo la vostra repressione non ci fa paura, la lotta delle donne sarà sempre più dura. E niente, adesso stiamo tornando a casa, siamo contente però anche arrabbiate, diciamo, perché certo, ripeto, non cioè veramente una va, ora ci vuole perché per il lavoro, per un diritto sacrosanto e basilare e ti accolgono con scudi, manganelli, ti vogliono caricare, ti arrestano, quindi le loro risposte purtroppo sono sempre queste, ma noi non ci arrendiamo. Eh sì, dopo il danno la beffa, lo Stato lo avvertiamo, insomma, quando sfrutta e reprime sostanzialmente, questo sono capaci di fare. Noi ti salutiamo tanto e allora poi ci sentiamo ovviamente nel corso dei prossimi martedì anche, insomma. Ciao, grazie a voi. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Et à quand la fin de toute forme de distinction sociale, à quand la fin de toute forme de ségrégation raciale, à quand la fin. Eh sì, appunto, lo Stato reprime, noi ne approfittiamo per salutare nuovamente Ilaria, una delle arrestate denunciate del 15 ottobre, oggi c'è stata l'udienza del suo processo, lo ricordiamo, 2 anni e 4 mesi, comunque la cosa importante è che Ilaria è libera, certo un livello di repressione molto alto e sottile, molto affilato come meccanismo. Noi salutiamo però anche chi è vicina a Ilaria, sua mamma, che ci ha ascoltato, e le amiche. E certo. Certo. Ciao amiche di Ilaria, ciao Ilaria, ciao mamma di Ilaria. Ciao. Comme des forcenés, ralpol on force les portes, on est prêt à négocier. La parité à tous les niveaux, dans toutes les classes sociales, la mixité, l'égalité des salaires. Les lois changent mais les mentalités stables, convaincus. Je revendique des principes plus terre à terre que des histoires de cul. Fini les années 75, les manifestations portées par des intellos. Un coup de chapeau, merci encore pour ces guerrières de France. Mais c'est pas fini, pour ces filles 20 ans, jeunes et jolies. E allora, momento stornello che dedichiamo a tutte le ascoltatrici. Soprattutto alla Fornero. Voglio cantare così, fior de mimosa. Non voglio far mestiere della sposa. Non voglio far mestiere della sposa. Non è pagato e mai ci si riposa. Non è pagato e mai ci si riposa. E questo lo dedico alle compagne dei ribellule. Fior de castagne. Non so la Fornero e non me metto a piagne. L'8 marzo è ma rivolta con le compagne. Prends la relève, de nos jours les droits de la femme sont bafoués. On trouve encore des femmes excisées, exilées pour des mariages forcés. Dans certaines familles d'Afrique, on voit aussi des femmes abusées, violées, assassinées. Partout dans le monde, les droits de la femme au Pakistan sont inexistants. C'est consternant de voir ces femmes se faire répudier pour le simple fait d'avoir mis au monde une petite fille fidèle à la tradition. Oh yeah, oh yeah, peuple femme, à vos armes, tapez du poing sur la table. Il est temps de changer pour une nouvelle ère. Oh yeah, oh yeah. E allora sì, arriviamo alla fine dello spazio, Lotto tutto l'anno. Vogliamo provare a ricapitolare, insomma, le tante iniziative che abbiamo sentito oggi. Io dico il nome della città e tu dici gli slogan, oddio, che te le parole d'ordine che ti sei segnata, però l'ho visto che lo facevi, sì, ma prima. Questo foglio, vabbè, ci e si quindi prova, insomma, partiamo da Palermo. Sì, Palermo, ben due iniziative, uno Anillo de Fuego hanno fatto... Stessa iniziativa, abbiamo sentito due compagne che ci hanno raccontato due punti diversi della stessa iniziativa. Sì, la gara d'aria, poi c'era anche quella davanti alla presidenza della regione. Era un corteo. Ah, era lo stesso? Sì. Ok, perfetto. È importante alla fine arrivarci insieme e capire le magari cose. Magari chi ci ascolta ci è arrivata meglio di noi. Sicuramente, beh, insomma, dai, ci vuole anche poco. L'unica emancipazione è la rivolta, il sit-in itinerante che appunto ha visto insieme precarie, studentesse e tante, insomma, organizzazioni di donne che hanno aderito. Il presidio itinerante a questo punto è arrivato davanti alla presidenza della regione, dove appunto sono state circondate dalla polizia le donne, le appunto precarie, le lavoratrici precarie, le disoccupate, le studentesse. Hanno però alla fine ottenuto, dopo un po' di tafferugli, c'è da dire, anche il tentativo di fermo e di arresto di una compagna. Comunque, insomma, la cosa si è chiusa. Hanno ottenuto un incontro per giovedì, ma insomma, staremo a vedere che cosa dice. Ovviamente tante anche le manifestazioni di solidarietà e di unione con le donne della Notav, e molti gli slogan intorno a questo, un po' dappertutto, la precarietà, appunto, contro il sessismo, contro lo sfruttamento, contro questo governo. Al fianco delle lavoratrici dell'OMSA anche buttiamo via, no, rottama la tua mimosa, un altro slogan, passo sì salto, sì, sì, di sì, qua fai e di bene, là. Fai bene. A Milano contro la violenza degli uomini hanno ricordato, hanno portato solidarietà alle colleghe di lavoro di Agata, una donna aggredita sul suo luogo di lavoro appunto dall'ex marito, dall'ex compagno. E poi a Venezia, Lotto tutti i giorni, appunto, rottamiamo le mimose, rottama la tua mimosa. A Terni un presidio di fronte all'ospedale. E un volantinaggio invece nel pomeriggio, e poi anche a Vicenza due giorni di iniziative con corteo We Want Sex. Tante altre, a Roma sono in corso le iniziative della coordinamenta qui a San Lorenzo, al 22 di Via dei Volsci, e stasera alle 21 a Porta San Paolo la mannarata Roma Mannare in bicicletta e quindi chi vuole pedalare anche un po' benvenuta. A Taranto un presidio itinerante itinerante appunto con le precarie. A Torino invece ci sarà un corteo il 10, sabato 10, appunto perché le compagne hanno scelto il sabato per riuscire a coinvolgere maggior numero di donne. Sì, sempre a Roma alle 19, Lucia Isiesta con la sua compleanna, è importante andare a sostenere anche questo luogo, anche questo ai noi sotto minaccia di sgombero. E io invece ritorno a sabato e ritorno a Palermo con un'assemblea su donne e lavoro che si terrà appunto a Palermo sabato 10. Eh sì, e poi se trovassi, perché qua è sparito tutto, ma anche la cosa, ricorderemo anche il campo di Agape. Ma non lo facciamo. Che è dal 5 al 9 aprile, che se brava. La mia memoria non mi aiuta. E dunque lo spazio Lotto tutto l'anno finisce qui, non la maratona delle 24 ore, www.ondarossa.info, ascoltateci anche in streaming come state facendo. Stiamo andando per la ventesima ora, meno esaurimento nervoso. Ma proseguiamo fino alla mezzanotte, dai, così. Non è finita qui. Esatto, un po' di musica e un saluto appunto a tutte anche le radio militanti amiche che ci stanno rimandando. Ora non le ripetiamo, poi dopo quando siamo più fresche sì. No, ti dis le shit, on fait pas bien, mais papa sur tes arrières, juste un coup de fil à donner et hop, on classe l'affaire. Tandis que si tu dis pour nourrir ta famille, c'est direct de la prison dors-toi à la prison chenille, où tu joueras au foot ça. Le monde va mal, on navigue, on avance, on avance, c'est vrai qu'il va mal. On avale n'importe quoi, on freestyle, jam, speed façon freestyle. Si on écoutait les ragots du hip-hop, combien de freestyle style ouais, avec un cutter les veines ou tirer une balle dans la tête comme Kurt Cobain. Ici pour foutre mon soupe, mon dawa, mon bordel. Faut que ça bouffe comme sur du zouka, ça je reste fidèle. Infidèle au cours, mais fidèle au rap. Les études, j'suis pour, mais j'suis fidèle au rap. J'lâche pas la grappe, la trappe dès que c'est possible. La grippe, le décap, ouais, le mic massive. James la corruptible, se la raconte et fière d'elle. Et n'oublie pas qu'elle est là pour foutre le bordel. Même si ça déborde, elle continue à foutre son bordel. Y'a pas de règle ni de droit dans mon règlement. C'est l'anarchie totale et ça bordéliquement. Rien à foutre, je suis là pour foutre le bordel. Rien à foutre, rien à foutre, rien à foutre, rien à foutre. Rien à foutre, je suis là pour foutre le bordel. Rien à foutre, et j'y monte du zèle. Rien à foutre, je suis là pour foutre le bordel. Rien à foutre, rien à foutre, rien à foutre, rien à foutre. Rien à foutre, je suis là pour foutre le bordel. Rien à foutre, et j'y monte du zèle. Comment veux-tu que je reste sérieuse? Le monde part en boulette dans toutes les langues, toutes les cultures, toute la planète. Les riches votent pour un front qui n'est pas notre et pleurniche. Quand on les corrompt, on court pour qu'ils sautent. On est loin d'être les autres de l'État. Car maths, l'État des tapes, dont c'est ta et nous tannent. Des tapes statistiques, stas à propos de nos statuts, de nos constats. Ça me tue la lame, je sens, s'ils veulent qu'on se tape. Mais à mon avis, on se taire. Quand on se tape, tu auras de statuts, ils seront quand on se tu auras leur table de staff et draps. Tu peux m'appeler la bouchière des rimes. Car j'aligne tout bordéliquement et c'est juste par frime. Ce que je kiffe dans l'ego trip, c'est que tu recraches tout ce que t'as. Ça tient au trip et tu vas cash comme ta bata. Si ta bataille dans la vie ne tient pas la route, viens, viens, je t'invite à foutre le souk. Rien à foutre, je suis là pour foutre le bordel. Rien à foutre, rien à foutre, rien à foutre, rien à foutre. Rien à foutre, je suis là pour foutre le bordel. Rien à foutre, et j'y monte du zèle. Rien à foutre, je suis là pour foutre le bordel. Rien à foutre, rien à foutre, rien à foutre, rien à foutre. Rien à foutre, je suis là pour foutre le bordel. Rien à foutre, et j'y monte du zèle. Rien à foutre, rien à foutre, rien à foutre, rien à foutre, rien à foutre. Yeah, now, I don't know what y'all call real hip-hop, but I know this is the real hip-hop. You understand what I'm saying? Jumps in the place to be. Check it out, you know what I'm saying? So peep it out, first album in the house. Pick it up, check it out, yo. Jumps in the place to be. A one, two, y'all, yeah. Don't forget Dao, e sono ancora qua dalle 6 del mattino e qua è una festa ed è una maratona radiofonica emozionantissima con tante compagne che ci vengono a trovare, che ci telefonano, che ci scrivono, che ci fanno gli squilli e noi siamo tanto contente di ricevere questo mega abbraccio che va da Trieste fino a Palermo e continuiamo con un po' di musica. Lotto, lotta. Lotto, lotta. 24 ore di diretta radiofonica femminista e lesbica non stop. They tried to make me go to rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they tried to make me go to rehab, I won't go. Seventeen days, 'cause there's nothing Femministe e lesbiche di tutto il mondo, unitevi ai microfoni. Per l'8 marzo di quest'anno, il martedì autogestito da femministe e lesbiche si misura in un'impresa che richiede spregiudicatezza, irrequietezza, una buona dose di caffè e sprezzo del pericolo. 24 ore di diretta radiofonica femminista e lesbica, no stop. Ci accompagnano in questa impresa donne, femministe, lesbiche, gruppi collettivi di ogni dove, redazioni femministe di altre radio, centri antiviolenza, blogger. Ascoltaci giovedì 8 marzo da mezzanotte alle 24 sugli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa o in streaming dal sito www.ondarossa.info. Partecipa anche tu alla maratona radiofonica, unisci la tua voce a quella di tante altre. Entra anche tu nel mito. Scrivi a mfla@ondarossa.info, chiama 06 49 17 50. mfla@noblogs.org. E solitamente le 19.30 è l'orario consueto del GR. Oggi ci sono state corrispondenze, interviste, interventi da tutte le piazze d'Italia e non solo sulle iniziative relative all'8 marzo. E visto che una particolarità del martedì autogestito da femministe e lesbiche quando si fa il GR serale è, oltre a dare spazio come d'abitudine della radio alle iniziative del movimento, è parlare e aprire il nostro GR con i femminicidi. Non volevamo perdere questo tipo di appuntamento, non perché ci faccia piacere leggere dei femminicidi, ma perché perché pensiamo che sia importante continuare a parlare dei femminicidi, di questa lotta, questa guerra degli uomini contro le donne. Ne abbiamo parlato anche oggi con una compagna questa mattina che ci ha spiegato il lavoro di Bollettino di Guerra, un blog che si trova sulla piattaforma WordPress, che è bollettinodiguerra.wordpress.com, e che ogni giorno, cioè che aggiorna femminicidi che avvengono in Italia. Siamo arrivate a 40 donne uccise da gennaio ad oggi, e prima di leggervi i femminicidi di questa settimana vi parliamo un po'. Abbiamo approfondito, abbiamo scritto una cosa sul femminicidio. È una categoria di analisi sociocriminologica delle discriminazioni e violenze nei confronti delle donne per la loro appartenenza al genere femminile, con riferimento alla strage delle donne di Ciudad Juárez, in Messico, dove 430 donne, di età compresa tra i 6 e i 25 anni, trovate massacrate nei campi intorno a Ciudad Juárez, e di altre 600 scomparse dal 1993. Le vittime, quasi tutte giovani, magre, con i capelli lunghi, provenivano da famiglie povere ed erano originarie di altre città. Nella maggior parte dei casi, i corpi ritrovati a settimane di distanza dalla scomparsa portano le tracce delle violenze estreme e delle torture subite, in aggiunta alla violenza sessuale di cui tutte sono state vittime. Spesso il viso appare massacrato e irriconoscibile, e in alcuni casi il corpo è bruciato e mutilato secondo modalità che ricordano fin troppo da vicino l'operato di un serial killer. Molte tra le ragazze scomparse erano arrivate a Ciudad Juárez con la speranza di essere assunte come operaie da una delle numerose fabbriche che assemblano, per società multinazionali, prodotti per l'esportazione, maquilladoras, che costituiscono la fonte principale di sostentamento per gli e le abitanti della città. Altre erano impiegate, domestiche, studentesse, commesse, segretarie, come il 35% della popolazione economicamente attiva di Ciudad Juárez. Si erano trasferite in quella città perché il salario delle maquilladoras, in media, i $4 statunitensi al giorno per 10 ore di lavoro, sembrava comunque meglio della povertà e dell'isolamento in cui vivevano nei loro villaggi. Così, omicidio dopo omicidio, Ciudad Juárez è diventato per le donne il luogo più pericoloso del mondo, soprattutto da quando, a partire dal 2001, con il moltiplicarsi delle inchieste di organismi internazionali, i corpi delle vittime violentate e strangolate hanno cominciato a scomparire nel nulla. Il concetto di femminicidio si estende al di là della definizione giuridica di assassinio ed include quelle situazioni in cui la morte della donna rappresenta l'esito, la conseguenza di atteggiamenti o pratiche sociali misogine. Coperti dalla più assoluta impunità, gli assassini hanno minacciato di morte e a volte ucciso avvocati e talvolta i loro familiari, giudici, procuratori, giornalisti, per costringerli ad abbandonare le inchieste sugli omicidi delle donne. È l'esercizio di potere che l'uomo e la società esercitano sulla donna affinché il suo comportamento risponda alle aspettative dell'uomo e della società patriarcale. È la violenza e ogni forma di discriminazione esercitata nei confronti della donna che disattende queste aspettative. Questa forma di controllo annienta l'identità della donna, assoggettandola fisicamente o psicologicamente, economicamente, giuridicamente, politicamente, socialmente. Il femminicidio è la punizione quotidiana per ogni donna che non accetta di ricoprire il proprio ruolo sociale. È il principale ostacolo alla autodeterminazione e al godimento dei diritti fondamentali di più di metà della popolazione mondiale. Il femminicidio attraversa ogni epoca, ogni cultura, ogni luogo. Come sostiene Bourdieu, il dominio maschile sulle donne è la più antica e persistente forma di oppressione esistente. Il femminicidio viola i diritti umani di metà della popolazione mondiale, spesso in connivenza con le istituzioni. E i femminicidi, purtroppo, dell'ultima settimana, più di 40 donne uccise, come vi dicevo, da gennaio ad oggi. A Milano, un uomo accusato di aver tentato di uccidere la sua ex, un uomo, un critico letterario, questo perché appunto